9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 12 aprile e oggi dedichiamo la puntata a ciò che formalmente si è messo in moto ieri, anche se da qualche settimana se ne discute, da quando l'evento in corso, il cambio di controllo proprietario a Parmalat e l'intervento della Consob e anche della politica nelle vicende in corso nella società Edison hanno riaperto un grande capitolo, hanno riaperto un capitolo che periodicamente accentra l'attenzione della politica e del dibattito pubblico del nostro paese. Questo capitolo si intitola "Esistono settori strategici nell'economia nazionale nei quali è opportuno apprestare delle difese, degli strumenti particolari pubblici di intervento per evitare che il controllo di società afferente a questi settori cada in mani indesiderate, in mani di stranieri temibili, perché magari a quel punto sostituiscono le catene di fornitura nazionali con le loro fuori dai nostri confini e quindi indeboliscono la nostra economia, oppure perché magari effettuano delocalizzazioni di headquarter, di uffici di direzione e magari anche delocalizzano tecnologie italiane. È opportuno dotarsi di strumenti di ritorno all'intervento in grande stile dello Stato, della mano pubblica, nell'economia per definire quali settori siano strategici e quali no, oppure no? Ecco, e ieri la risposta a questa domanda, che intanto ha fatto dei passi avanti perché, come sapete, è stato adottato un decreto che ha comprato del tempo rispetto alla crescita dei francesi del gruppo Lactalis in Parmalat, si è comprato del tempo e si è detto chiaramente che questo comprare il tempo, cioè far slittare di 2 mesi l'assemblea, serviva ad apprestare un'accordata italiana ed eventualmente anche uno strumento pubblico che consentisse poi di entrare nel capitale di Parmalat per contrastare il fatto che il suo controllo andasse ai francesi di Lactalis. Ecco, ieri è avvenuto formalmente il primo passo perché l'Italia torni ad avere anch'essa uno strumento pubblico. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che ieri la Cassa Depositi e Prestiti ha cambiato il suo statuto e quindi si è data la possibilità anche di operare come holding che assume partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, o appunto le potrà assumere direttamente o indirettamente. Indirettamente significa tramite veicoli societari o fondi di investimento in quel caso aperti anche a capitale straniero e a soggetti italiani come banche e soprattutto fondazioni, e lo potrà fare anche con il canale garantito dallo Stato a Cassa Depositi e Prestiti, e cioè il canale del risparmio postale. Voi sapete che la Cassa Depositi e Prestiti, che ha più di 150 anni, compie due tipi di attività fondamentali tradizionalmente, cioè i mutui verso la pubblica amministrazione, gli enti locali, le regioni e così via, in cui impegna molti denari, impegna una settantina, un'ottantina di miliardi di euro, e in questo caso utilizza il risparmio postale, appunto, e compie poi anche altre attività, perché ha mutato la sua natura da qualche anno, e l'ha mutata perché, come avviene con strumenti analoghi nel caso francese o nel caso tedesco, ciò che essa compie, i suoi attivi e quindi anche i suoi debiti, sono fuori dal recinto del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri Eurosec 95. Questo le consente, in altre parole, di operare con fondi garantiti dal pubblico per alcune attività, per altre, come per esempio i finanziamenti alle ex municipalizzate, in quel caso invece deve emettere obbligazioni proprie, quindi sul mercato, a condizione di mercato, non può utilizzare il risparmio postale. A queste attività, a cui si sono aggiunte recentemente altri tipi di iniziative in cui la Cassa Depositi e Prestiti è diventata attiva, il fondo per esempio per il social housing, per nuova edilizia popolare, il fondo di garanzia per le opere pubbliche, l'attività di garanzia verso la SACE con le esportazioni, il fondo per la ricapitalizzazione delle medie imprese richiesto da Confindustria, introdotto l'anno scorso, che serve a selezionare tra le medie imprese italiane dei campioni nazionali possibili in cui intervenire anche qui, sia nel capitale di debito che nel capitale di rischio, per rafforzarli. Ecco, a tutto questo da ieri la Cassa Depositi e Prestiti ha aggiunto la possibilità di agire direttamente o indirettamente come holding e come SGR aperta a privati e stranieri per intervenire appunto in settori strategici. E questi settori in cui assumere partecipazioni secondo il criterio del rilevante interesse nazionale, e sappiamo quali sono? Non ancora, perché verranno definiti, è stato ribadito anche ieri dalla Cassa Depositi e Prestiti, verranno definiti in un decreto del Ministero dell'Economia, e quindi questo provvedimento restiamo in attesa di capire come sarà predisposto. Il ministro Tremonti nelle scorse settimane, e anche al commissario europeo alla concorrenza, che ha chiesto al governo italiano un approfondimento, ha ribadito che il provvedimento che intende presentare, non intende presentare in francese, ripetendo parola per parola il testo di legge che da metà degli anni 2000 vige in Francia, e sui quali appunto la Unione Europea, la Commissione Europea ha aperto però degli approfondimenti. Ricordo a tutti che quella norma francese definisce 7 settori in caso di scalata ostile di imprese comunitarie, e 11 settori in caso invece l'impresa che lancia l'OPA o assume il controllo sia fuori dell'Unione Europea. In nessun caso è compreso l'alimentare, si tratta sempre di settori di tecnologia che hanno con la sicurezza, la difesa, eccetera eccetera. C'è però, fa notare Tremonti, in questo ha ragione, c'è però per esempio il settore del casinò, perché la cosa serviva a bloccare la scalata alla Danone da parte della Pepsi Cola, e perché la Danone aveva una piccola partecipazione anche in un casinò, cioè per la serie, i francesi hanno questa legge e il ministro vuole presentarla tale quale, dicendo all'Unione Europea: se voi la fate decadere, allora decade la mia ma decade anche la loro. E nel frattempo i francesi però, dopo Sarkozy, così hanno un fondo sulla cui scorta nasce questo italiano, e questo fondo può appunto intervenire nei diversi settori, e lo fa anche fuori dai settori stabiliti dalla legge francese vigente. Quindi ieri c'è stata un'ulteriore novità all'atto della modifica dello statuto, perché soprattutto le fondazioni, ve lo ricordo, hanno il 30% della Cassa Depositi e Prestiti e ne esprimono anche la governance, l'amministratore delegato Gorno Tempi, ex Banca Intesa. Le fondazioni hanno fortissimamente voluto che ieri fosse chiaro, ed è stato chiarito nel comunicato, che gli interventi di questo fondo, e quindi dello Stato tramite questo fondo, non devono avvenire in situazioni di crisi economica o finanziaria. Cioè, questo fondo non è la GEPI, non deve servire discrezionalmente la parte della politica, ci è stato detto nel comunicato di ieri, per intervenire in chi perde soldi, e ci mettiamo soldi del contribuente per metterci a salvare gli amici degli amici. Ecco, queste sono, diciamo, le caratteristiche tecniche che si conoscono. La domanda di fondo che pongo ai nostri interlocutori oggi, come pongo a voi, sperando che chiamiate all'800240024, è molto semplice. Abbiamo bisogno di questo, stante il fatto che solo il 4% delle imprese italiane è controllata dall'estero, in Francia 3 volte tanto, in Gran Bretagna 5 volte tanto? Noi abbiamo a tirarli i capitali stranieri, pare a me, oppure pensate che dobbiamo diffidarne e respingerli in alcuni settori, come torna a pensare il governo e sembra col pieno appoggio anche del modello del sistema bancario delle fondazioni italiane? Dobbiamo ricordarci dell'insegnamento di che cosa ha fatto lo Stato in tutta la seconda lunghissima parte, onerosissima per il contribuente, parte delle partecipazioni statali, cioè sprecare denaro, uccidere valore, porre le basi poi perché l'Italia perdesse grandi gruppi, e quando poi li ha privatizzati si sono perduti ancora di più per come li ha privatizzati lo Stato? Oppure dobbiamo pensare che di quegli errori la politica oggi, del futuro, farà tesoro e che quindi non li ricommetterà di nuovo? Vi fidate di questo? E a questo punto perché non dotarci anche noi degli strumenti di tutela protezionista che utilizza la Francia, ma che utilizza anche con interventi pesantemente a volte nazionalisti gli stessi Stati Uniti, e così via? Ecco, queste sono le domande di fondo. La mia risposta è chiara: io penso che lo Stato ci abbia insegnato che bisogna diffidarne nel nostro paese, io penso che il politico non sa mai per definizione che cosa è strategico e lo sa il mercato, io penso che la bandiera nazionale non faccia la differenza, io se vedo l'intervento del capitale straniero nelle multinazionali all'estero nei paesi più indietro nel valore aggiunto, come noi siamo, vedo che hanno accresciuto il valore aggiunto e l'efficienza organizzativa. È vero, ci sono dei problemi di delocalizzazione a volte quando gli headquarter sono all'estero, è vero, però in generale la delocalizzazione anch'essa in paesi paragonabili per peso della manifattura ha cresciuto la produttività nel manifatturiero. Può essere che mi sbagli e che io non veda l'importanza della nazionalità. Mi taccio, sentiamo cosa pensano gli altri, gli ospiti di oggi, e cominciamo a presentarli. Con noi Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica, è editorialista anche del Sole 24 Ore. Buongiorno professor Vaciago. Buongiorno a tutti. E abbiamo Paolo Cirino Pomicino, ex ministro, neopresidente della Tangenziale di Napoli e soprattutto persona, ci tengo a dirlo, tutte le volte è stato nostro ospite, l'ho ripetuto, al quale motivi di stima e amicizia, pur essendoci combattuti tutti tanti anni fa per via della politica, mi legano profondamente, perché considero un uomo che ha attraversato crisi, accuse, difficoltà e mai nella vita in una maniera, non capirete se non avete presente come le ha affrontati, che mi ha fatto molto riflettere, e lo considero un maestro in questo, in un paese in cui è molto difficile affrontare crisi ed accuse, e ne abbiamo quotidiana dimostrazione di come sia molto difficile. Buongiorno Paolo Cirino Pomicino. Buongiorno e grazie per le sue parole, eccomi qua. Allora, cominciamo da Pomicino, lei che dice? Di solito è critico verso Tremonti. Io che esula dai principi dogmatici, il privato è buono, il pubblico è cattivo o viceversa, secondo delle proprie convinzioni. Esistono privati buoni e cattivi, esiste un pubblico buono e cattivo. La seconda cosa, il mercato è neutrale rispetto alla natura della proprietà delle aziende che si trovano nell'economia di mercato, il che significa che se si rispettano le regole del mercato, e oggi più che mai con l'Unione Europea ci sono gli strumenti per farle rispettare, pubblico e privato agiscono alla stessa identica maniera. Terza ed ultima questione in questo primo giro, c'è da valutare qual è l'impianto della nostra economia. L'Italia, contrariamente alla Francia, contrariamente all'Inghilterra, ha oltre il 95% di piccole e medie aziende che sono al di sotto addirittura di 50 dipendenti, e in realtà le grandi aziende che hanno capacità di fare innovazione e ricerca a beneficio dell'universo mondo delle imprese non sono nel patrimonio delle piccole e medie imprese. Noi come Italia siamo entrati nell'industria a tecnologia avanzata proprio grazie alle partecipazioni statali, che avranno commesso errori come commettono gli errori anche imprenditori privati, ma senza le partecipazioni statali noi non saremmo entrati nelle telecomunicazioni, nell'energia, nella chimica e in tant'altri settori. Aggiungo come testimonianza di questo mio ragionamento, che come i radioascoltatori avranno compreso non è ostile all'ingresso, quando è necessario, del pubblico nelle grandi aziende strategiche, quello che è accaduto nelle telecomunicazioni. La Telecom, la stessa Telecom era già quotata quando era pubblico, l'abbiamo privatizzata, c'è stata prima Fiat, poi Colaninno e i Capitani Coraggiosi, poi c'è stato Tronchetti Provera, alla fine della giostra, dopo 14 anni, noi abbiamo un controllo da parte di strutture finanziarie. Anche questa è un'anomalia, se vogliamo, anzi è più che un'anomalia, dove però l'unico socio industriale è la spagnola Telefonica. Come si vede, nella grande impresa il nostro capitalismo, più legato alla piccola e media impresa, non ha la forza e la cultura necessarie per governarla fino in fondo. Molto chiaro. Che dice Vaciago? Mi lascia perplesso, devo dire, Pomicino, sentiamo Vaciago. Ma io vorrei anzitutto fare una premessa, non mi piace quando si raccontano le bugie, perché sulla vicenda Parmalat in realtà sappiamo tutti cosa è successo, c'erano tre fondi che volevano vendere, il dossier è girato su molti tavoli, giusto, per molti mesi, giusto, e alla fine è venuto fuori che c'erano italiani interessati a comprare, ma non avevano tutti i soldi, quindi andiamo da chi i soldi non li stampa, ma neanche un po', e andiamo dal ministro a chiedere un aiuto. I ministri utili sono quelli che servono agli interessi, in questo caso, ti inventa un decreto. Se non era Lactalis, ma era un tedesco o un americano che comprava il 15% che avevano i fondi, che battuta facevamo sul francese. Allora, ovviamente, essendo l'acquirente francese, ci siamo inventati che se l'hanno fatto sulla Danone. Per inciso, consiglio di leggere l'articolo sul Wall Street Journal Europe, pagina 32, sulla crisi della Danone degli anni scorsi, da quando il governo francese ci ha messo soldi. Chiuso la parentesi, torniamo a noi. Allora, la vicenda la conosciamo, però è utile se, come dice giustamente Pomicino, torniamo a ragionare sul futuro di questo paese. E allora io faccio due osservazioni. Il successo dell'Europa dipende da una sola regola, la emulazione. Tu devi imitare e migliorare l'altrui meglio. Quando dici anche i francesi fanno protezionismo, fai il contrario, tu imiti i difetti dei francesi e allora l'Europa non va da nessuna parte. Sembra quei bambini che litigano e uno dice è stato il primo lui. Allora, nascondersi dietro il dito francese, cioè noi facciamo l'Europa imitando i difetti degli altri, e questo è, io boccio uno studente se ha capito che questa è l'Europa. Guardiamo le virtù francesi, non ai loro difetti, per piacere. E questa è la prima grande osservazione di metodo. La seconda è che l'altro giorno a Budapest l'OCSE ha presentato una pagina sull'Italia che è micidiale. Sì. Questo paese vuol tornare a crescere? Beh, chiaramente deve favorire la competizione, favorire, diventare attraente, deve ridurre la proprietà pubblica, cioè la Cassa Depositi e Prestiti è da chiudere, non da ingrandire. Se no non cresce in questo mondo. Pomicino ha ragione quando ricorda l'importanza che hanno avuto l'IRI, Mediobanca, tutte le nostre passate glorie, ma questo non è più il futuro. Il futuro oggi è far squadra, sì, ma per crescere altrove e qui essere attraenti. E lei ha toccato, ha evocato un nome, Mediobanca, di cui molto le cronache si sono occupate per quello che è avvenuto in generale la settimana scorsa, mercoledì, con la defenestrazione di Cesare Gerozzi. Ma dopo la pausa pubblicitaria, noi esattamente di qui ripartiamo, perché la domanda che io devo fare a Paolo Cino Pomicino e poi a Vaciago è: leggiamo di che serve per Parmalat, sulla quale io sono completamente d'accordo con il professor Vaciago, ne abbiamo più volte parlato anche a questo microfono, io ho detto chiaramente che ci sono le impronte digitali di Banca Intesa, che ci sono su molte vicende delle cosiddette operazioni di sistema, dall'Italia a NTV Ferroviaria e così via, e anche questa vicenda ci sono impronte digitali tutte italiane in quel dossier di cui parlava Vaciago. Ma al di là di questo, cosa pensare se tra pochi mesi, allo scadere del patto di sindacato di Mediobanca, dovessimo capire che questo fondo pubblico presentato per la strategicità serve proprio magari a rielevare le quote della classe C del patto di sindacato di Mediobanca, quello dei soci francesi, determinando una, a quel punto, interessante verità delle parole di Tremonti che ci ha detto in questi giorni: ma io non voglio rifare l'IRI. Infatti la vecchia IRI, quella dei democristiani, non riuscì mai a mettere le mani all'interno di Mediobanca. Può essere che tra pochi mesi invece questo fondo faccia esattamente quello, ciò che ai vecchi boiardi di Stato, questa espressione che non mi piace e che però poi si usa, non riuscì mai, e non riuscì neanche all'ultimo Prodi contro Cuccia, appunto, perché Mediobanca ha sempre detto: io sono qua, sia pure beccandomi soldi dalle banche pubbliche, perché quello era il suo canale di raccolta, ma per tutelare, con il sacro nome Enrico Cuccia, la difesa attraverso parte di sindacato di mercato di quel po' di privato grande che vuole resistere alle improprie tentazioni della politica. E se invece tra qualche mese questo fondo, e questo spiegherebbe perché il sistema bancario italiano poi è così favorevole, servisse proprio a garantire una condizione nuova e diversa mai stata in Mediobanca, e soprattutto a quel punto ad accendere un grande punto interrogativo, perché i denari pubblici che tornano lì dentro e a quel punto chiedono anche un ruolo su controllate come RCS, Corriere della Sera, Telecom Italia, ricordata da Pomicino e Generali. Che vi sembrerebbe di questo? Pubblicità. Eccoci tornati in studio, direi di cominciare direttamente dall'opinione di due ascoltatori, poi torniamo ai nostri ospiti. Mauro ci chiama da Udine, prego Mauro. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io, il mio intervento vede, vuol dire, vuol significare che in Italia il sistema, anche tra virgolette economico, di libero mercato non esiste, o meglio è legato a dei alla burocrazia, alla clientela, alla politica, che purtroppo decide chi deve essere il presidente di Confindustria, tutte le cariche sono comunque inguagliate da un sistema politico clientelare che ancora nella nuova Repubblica, nell'ultima, non si è tolto, non si è sganciato da quella che deve essere la libertà e il libero mercato. Gli investitori dall'estero, quando devono venire in Italia e devono investire, devono fare attività, si mettono le mani nei capelli, perché la burocrazia è incredibile. Se non c'è un pass del politico non si fanno investimenti. Io sono un meridionale che lavora. Ed ergo, lei vede con favore o con diffidenza? Direi con diffidenza, visto le premesse che si sta dicendo dello Stato. Io sono per il libero mercato, assolutamente. Per un libero mercato, però chiaramente che debba avere un minimo di regole, di regolamentazione. Certo. Per dare l'opportunità a chi va in impresa veramente di poterla fare senza troppi disincentivi che dipendono da come lo Stato è organizzato, da quello che ci chiede. Grazie Mauro. Maria Rosa che ci chiama da Torino, prego. Buongiorno. Dica signora. Io sono completamente contraria all'intervento dello Stato, perché intanto in passato è stato dimostrato che tutti questi interventi altro non erano che un modo per sovvenzionare in maniera mascherata più o meno partiti vari. Quindi sono anch'io, come l'ascoltatore precedente, per il non intervento dello Stato. Grazie Marosa. C'è Vittorio da Roma, prego Vittorio, lei che pensa? Penso che è un escamotage politico per procacciarsi dei soldi, perché non gli bastano più quelli che si prende. Addirittura. Beh, insomma, sì, perché altrimenti siamo fuori dal mondo. L'orbita attuale del commercio, delle industrie, non può pensare che la politica si metta in mezzo con i soldi dei risparmiatori delle poste. Grazie anche a Vittorio. Non pensiate come al solito a casa che sono selezionate. Io non ho niente a che fare con chi va in onda con le telefonate, non li scegliamo certo per il merito. Sicuramente molti ascoltatori invece saranno anche a favore, per il momento i primi tre no. Salvatore Bragantini si è aggiunto ai nostri ospiti, è economista, ex commissario della Consob, editorialista del Corriere della Sera, un osservatore critico che non risparmia giudizi espliciti e sinceri, per questo lo amiamo da tempo, da che lo leggiamo sulle vicende del mercato, delle quotate italiane e anche dei regolatori. Bragantini, che impressione le fa il via di questo fondo partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti? Fidarsi o meno della strategicità scelta dalla politica alla luce dell'esperienza della politica nell'economia, nella storia del dopoguerra italiano, secondo lei? Il ministro Tremonti disse una volta: il mercato dove è possibile, lo Stato dove è necessario. Qui il mercato è possibile e lo Stato non è necessario. Io credo che ci sia un ruolo per lo Stato nell'economia, ma è quello di fissare una cornice, non di riempire il quadro, tantomeno nei dettagli. Basti dire che il fondo a quale si pensa dovrebbe avere una dotazione di 5 o 7 miliardi, con i quali si fanno a malapena due Parmalat, quindi sono anche risorse insufficienti, anche se fosse giusto il fine, che secondo me non è, le risorse sono insufficienti. Io vedo un drammatico cambiamento dai tempi della legge Draghi, che apriva il mercato, ad oggi che lo chiude, se vogliamo è un contrasto anche questo fra Draghi e Tremonti. Le sembra che ci sia anche un diverso orientamento nel regolatore del mercato, nella Consob, a questo proposito? Ma guardi, qui è presto per dirlo, c'è qualche timore, però ci sono state anche alcune decisioni che mi sono parse decisioni ispirate a una logica di mercato, per esempio il discorso su Groupama, che è stata stoppata nell'accordo con l'Igresti. Secondo me era una decisione giusta. Perché il regolatore gli ha detto: no, dovete a questo punto lanciare l'OPA, e quindi sarebbe più oneroso. Passava al controllo, e questo era troppo oneroso, e i francesi si sono tirati indietro. E i francesi di Groupama però dicono: questo è per impedirci, salvando poi l'ingresso, di contare più in Mediobanca. Vediamo se Unicredit, che fa la stessa cosa per ottenere poi lo stesso fine, ovviamente per aggiungere influenza a quella che già è in Mediobanca, vediamo se la Consob sarà altrettanto rigorosa nei suoi confronti come lo è stata con noi. Ma dunque, qui dissento dal ragionamento dei francesi, nel senso che è vero che l'operazione gli assomiglia, però Unicredit è un finanziatore che sta solamente proteggendo i suoi traballanti finanziamenti, non intende controllare Fonsai, cosa che invece ad evidenza facevano. Che Obama voleva fare. È giusta questa risposta. Allora io ricomincio da Paolo, Cirino Pomicino. Se tra pochi mesi, pochissimi, perché il patto del sindacato di Mediobanca scade, in realtà si può disazionare, per così dire, già dal prossimo settembre in vista della sua scadenza. Ma se dovessimo apprendere che questo fondo, invece, e non tanto per Parmalat, serve a candidare questo strumento per subentrare ai francesi sindacati classici come membri del patto del sindacato di Mediobanca, e di cui è evidente oramai che soci privati italiani di Mediobanca e che anche soci bancari di Mediobanca ritengono che sia finita la storia della loro presenza lì, il ruolo che esercitavano, e che quindi insomma Bolloré e Tarak debbano cedere ai italiani. C'è aperta la gara tra quali italiani privati come Della Valle, che si sono candidati a farlo, banche, oppure italiani espressioni delle due armate bancarie che si affrontano in campo, Unicredit e Intesa. E se dovessimo invece immaginare che proprio questo fondo col denaro pubblico che entra in Mediobanca, che ne penserebbe Paolo Cirino Pomicino? Rispondo di qui a un secondo su Mediobanca. Prima però devo dire una cosa al professore Bragantini e al professor Vaciago. Non si può immaginare che il libero mercato sia tautologicamente l'esclusione di un soggetto pubblico nel mercato che ne rispetti le regole del mercato. E avrei piacere anche di sapere quelli che sostengono il valore dell'economia di mercato sempre e comunque cosa dicono di quella che è stata la nazionalizzazione delle banche, tutte private, che sono state in gran parte nazionalizzate, in particolare nell'ambito dei paesi angloamericani e olandesi, cioè la culla del migliore liberismo e della migliore idea di economia di mercato. Io sono d'accordo sul loro intervento, cioè sull'intervento dello Stato nei riguardi delle banche per evitare effetto domino, che sarebbe stato disastroso. Lo dico solo per riconfermare che il pubblico nel mercato non è la contrarietà all'economia di mercato. Naturalmente va fatto con però, grano salis e arrivo a Mediobanca. Paolo Cirino Pomicino, lei capisce che agli occhi di tanti italiani, comunque la pensino e comunque la votino, chi sta in politica con questo conflitto di interesse plateale e che la politica non ha saputo risolvere né l'opposizione né quando c'è questa maggioranza al governo, che si debba fidare di un criterio di intervento rigoroso di mercato invece che gli amici degli amici, ammettiamo, Pomicino. Le faccio un esempio, proprio su Mediobanca, correggendola se mi permette. Mediobanca è stata fino alla metà degli anni Ottanta una società pubblica, perché la maggioranza di Mediobanca era nelle mani delle tre banche nazionali. E lo Stato non è mai intervenuto nella definizione o nella gestione di Mediobanca, che, come diceva lo stesso Cuccia, era di proprietà pubblica ma aveva una testa privata. Poi sarebbe troppo lungo ragionare su Mediobanca e sui suoi limiti, è vero, in quella stagione politica. Voglio dire che la presenza del pubblico non significa che i manager pubblici fanno quello che dicono i politici, il Parlamento o il governo che sia, ma il pubblico nel mercato, come dimostrano i casi francesi, come dimostrano i casi tedeschi, sono un aiuto all'economia di mercato se vissuto in maniera trasparente e corretta. Mi rendo conto, se uno fa la domanda, ma volete lo Stato nel mercato oppure volete i privati? Beh, insomma, è ovvio che si dice i privati, però devo anche aggiungere, chiedo con spirito di grande umiltà a Vaciago e a Bragantini, ma che senso ha, ad esempio, che Banca Intesa è il 20% di Granarolo? Noi abbiamo superato il famoso limite di Menichella del 15% delle banche nel settore industriale, ma perché le banche in sostanza non sono anch'esse pubbliche in termini anglosassoni. Però pubbliche in termini anglosassoni non è pubbliche come nel senso. Dubbio, ma voglio dire, è un dato accettabile non che i fondi, ma che le banche siano azionisti al 20, al 30, al 40% di grandi soggetti industriali. Anche qui, come al solito, la risposta è diversa. Certo, ci sono interventi positivi e interventi invece soltanto di salvataggio. Non c'è dubbio. Senza dubbio poi molti degli interventi fatti fatti dalle due maggiori banche italiane e magari ancora nel vecchio recinto dei patti di sindacato, nati quando c'era ancora il regime di vincolo sui capitali, ai tempi della vecchia Mediobanca, e oggi secondo me ingiustificata. Io sarei per scioglierli tutti quei patti di sindacato, a dire la verità. Credo che ci guadagnerebbero tutte le grandi aziende, da Telecom Italia a RCS, che ne sono partecipate e bloccate nella creazione di valore con armate di finti soci che combattono per credere di tutelarsi meglio per una riga in più e meno al Corriere della Sera. Però detto questo, d'accordo con Pomicino che il più di quei patti e di quegli interventi delle banche realizzati in quel modo, anche lì sono fatte secondo criteri di mercato, punto interrogativo. Che dice Vaciago sulla questione vedremo il fondo in Mediobanca e gli interventi fatti dalle banche nelle imprese rispondono poi essi davvero a interessi di mercato? Che dice Vaciago? Ma io farei di nuovo un ragionamento sul paese e sulle sue priorità. Ho paura quando vedo interventi pubblici e o privati che servono solo a difendere il passato, a conservare, perché da 15 anni il mondo è nuovo, questo mondo in cui viviamo oggi non è mai esistito prima, e quindi noi abbiamo bisogno di ragionare su come ci meritiamo un futuro. Abbiamo migliaia di piccole e medie aziende che per crescere devono crescere fuori dall'Italia. Chi le aiuta? Chi è la portaerei che porta in giro per il mondo queste aziende? Questa è la prima delle priorità. Proprio perché la nostra crescita, le nostre migliori aziende la fanno ovunque meno che qui, la seconda priorità è essere attraente, perché solo se il mondo investe qui il paese cresce. Attenzione, mai come negli ultimi anni le nostre migliori aziende crescono ovunque, il paese no, perché ci manca la crescita qui del resto del mondo. Quindi abbiamo due priorità, poi le possiamo fare con Tremonti o senza Tremonti, con Mediobanca o senza Mediobanca, ma le priorità devono essere chiare, e secondo me questo paese sta discutendo di come arriva lunedì e non di qual è il suo futuro. Questo è il dramma della politica del paese, destra e sinistra, per dire. Sì, sì, sì, non c'è come dubbio. Si arriva lunedì è la priorità. Benissimo. Il lunedì prossimo. Macchina, perché ci vuole l'informazione sulla circolazione stradale. Prima di sentire altri ascoltatori, di tornare da Salvatore Bragantini, tenete conto, io ho l'obbligo di dire, molti ascoltatori mi dicono sei troppo critico, perché allora la maggior parte dei giornali italiani presenta incontri come quelli avvenuti pochi giorni fa al Ministero del Tesoro con i rappresentanti di tutto il sistema bancario italiano e di tutte le fondazioni bancarie italiane, con un totale adesione allo spirito del ministro. In effetti è vero, questo è ciò che è avvenuto. Ancora oggi ci sono giornali, ne prendo uno a caso, che dice: lo scenario banche, la rete per fare sistema e sostenere l'Italia S.p.A. Unicredit, Intesa e Mediobanca si incrociano nelle ricapitalizzazioni e fanno fronte comune con il governo a tutela del sistema Italia. Per carità, io non intendo assolutamente dire che il mio spirito critico non debba dare atto che questa è l'atmosfera che sembra dominante oggi nei rapporti di questa nuova stagione, perché questo è lo stesso Tremonti che anni fa animò la battaglia contro le fondazioni. Oggi la nuova CDP nasce proprio in questa intesa conclamata con il sistema bancario italiano. Può essere, come ci dice Cino Pomicino, che tutto questo è perché si è imparata la lezione del passato. Io mi limito a dire, diffido e sospetto. Rita da Roma come la pensa? Prego Rita. Buongiorno, io non sono un economista, non sono un'esperta, io sono una cittadina che sta vivendo una situazione della quale si parla poco, ma io la vedo molto in linea con la discussione di oggi, e parlo della privatizzazione della Tirrenia. Vecchia lunga vicenda, sì, ecco. Vecchia lunga vicenda che sta forse all'epilogo, sì. Nel senso, io leggo sul Sole 24 Ore del 1 aprile che c'è una sola offerta, perché questa offerta è formata da una cordata della famiglia Grimaldi, che vede praticamente le compagnie che fino a ieri avevano fatto un servizio privato sulla tratta Italia-Sardegna, ovviamente, sì, a dei prezzi decisamente decenti, quest'anno fare cartello, sì, questa è la cosa, e triplicare, anzi quadruplicare in qualche caso, i costi. Nel frattempo queste stesse compagnie hanno formato una società, la Compagnia Italiana di Navigazione, e si presentano in gara per, sì, l'acquisto della Grimaldi. E da questa particolare vicenda, che Rita è lunga, che ha visto uno Stato praticare concorrenza a privati con il sussidio ai soldi dei contribuenti, che l'ha visto non in grado poi di esercitare la cessione, che ha visto regioni praticare interessi diversi, ha visto la Regione Sicilia, eccetera, una vicenda lunga nella quale il pubblico, secondo me, non ci ha dimostrato che ha capito la lezione, come dice Paolo Cirino Pomicino. Lei quali conclusioni invece ne trae? La vicenda però non mi sembra che passando col privato migliori, perché mi pare che l'offerta fatta da questi signori sia vincolata alle garanzie di contributi pubblici per 72 milioni annui. E questo, Rita, è vero, ne abbiamo parlato esattamente quando abbiamo, ci siamo occupati della faccenda Tirrenia. Che cosa avviene, questo dal mio punto di vista? Che quando lo Stato sussidia per troppi anni, in concorrenza ai privati, gestioni inefficienti, inevitabilmente i privati, rispetto a una da troppo tempo annunciata cessione che non avviene, perché qui siamo alla terza tornata di tentativi di cessione secondo regole di mercati, i privati dicono: bene, visto che ci dobbiamo beccare le piante organiche e una parte dei debiti, tu continui a sussidiarci. E quindi questo è un classico esempio di come il cattivo regolatore e il cattivo imprenditore pubblico contagia con regole sbagliate e comportamenti sbagliati anche il privato. Questa è la mia opinione. Enrico da Parma, prego Enrico, che da Parma che si dice, visto che lì Parmalat, quindi come la pensate? Giannino, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io sinceramente vado un po' controcorrente, forse, perché oltre a comunque a pensare che il libero mercato ha sempre ragione ed è lui che decide poi alla fine, ma non dimentichiamoci che nel caso Parmalat, appunto, Parmalat ha una cassa che non è da ridere, sì, è 1,5 miliardi, esatto, sono soldi nostri. Sì. E quindi direi che se lo Stato, in questo caso, che poi lo Stato fino a mezzogiorno, perché Intesa non è lo Stato, Unicredit non è lo Stato, dovesse mettere le mani su questi soldi piuttosto che lasciarli ai francesi, che con un misero 29% potrebbero invece... Lei dice meglio, lei preferisce che sia Banca Intesa a fare la cosa con Granarolo, che sappiamo da anni essere il vero problema e il vero succo delle obiezioni mosse alla gestione Bondi. Lei dice meglio così, piuttosto che se le prende Lactalis per regolare gran parte poi del debito che c'ha tra Lactalis Francia e Italia. Anche questa è un'opinione, ma il problema è: perché utilizzare i soldi pubblici? Perché stabilire che Parmalat è strategico? Ma io questo non lo capisco, con grande rispetto per chi la pensa come lei. Bragantini, dovesse dare lei una risposta a troveremo tra poco in Mediobanca il fondo che nasce oggi, è una preoccupazione sbagliata secondo lei oppure no? Ma temo che non lo sia, è una possibilità. È chiaro che nel momento in cui dice c'è una somma per difendere le aziende strategiche, poi è naturalmente il potere politico che decide cose strategiche. Io vorrei rispondere a Cirino Pomicino. Io non credo che la politica non si debba occupare di nulla. Io credo che debba definire delle regole ex ante, che debba dare delle priorità, ma non è che quando qualcuno ha comprato un'azienda c'ha il 29%, c'è l'assemblea dopo 10 giorni e si ferma tutto a partita già iniziata. Questa è una roba che, come ha detto giustamente Cesare Vaciago, allontana ogni investitore dall'Italia, perché se io ho l'impressione che arrivando, se sono sgradito a qualcuno, o per meglio dire se non mi sono arruffianato qualcuno, io sono bloccato. Certo, non c'è dubbio. Ma lei si fida di questa nuova atmosfera che nel totale del mondo bancario e delle fondazioni ispira verso il ministro? Ma guardi, diciamo che la concordia è sempre bella e la lite è sempre brutta, però il mercato è una cosa diversa. Il mercato è una cosa dove ci sono interessi contrapposti che vengono giocati nel rispetto delle regole. Io ho un po' paura, per dire la verità, di questo unanimismo che mi sembra, diciamo, una specie di omaggio al signore prossimo Venturo, che forse, anzi diciamo pure la verità, io dico la mia opinione, sarebbe certamente meglio dell'attuale, però ci vedo anche molta captatio benevolente. Va bene, come avrete capito, lo ammetto, anche per rispetto di Paolo Cino Pomicino e chi la pensa invece diversamente da me, è vero, gli ospiti erano un po' squilibrati, Bragantini e Vaciago erano critici come me, Paolo Cino Pomicino si è trovato da solo, ammetto questo squilibrio, vedremo se le garanzie, la maniera di operare, la scelta degli interventi sarà tale che le diffidenze di noi troppo mercatisti siano ingiustificate. Io temo di no, io temo che bisogna diffidare quasi sempre dello Stato per le prove che ha dato e che ci dà tutti i giorni nel nostro paese, e la politica in questi ultimi anni, non giorni, non ha contribuito a farmi diffidare di meno. Appuntamento domani, linea Giornale Radio.